Vuoi essere protagonista anche tu con Rockline? Chiamaci subito allo 0266710027. La linea calda di Rock FM. Ciao a tutti, sono Paolo e vorrei far sentire a tutto il mondo la potenza dei Manowar attraverso la canzone Fighting the World. Grazie, ciao. Mi piacerebbe sentire Big Gun degli AC/DC. Grazie, ciao.